Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il giorno del ricordo fra il Sacrario di Basovizza, luogo simbolo delle vittime delle foibe, e il treno del ricordo alla stazione di Trieste, dove è allestita una mostra sull'esodo di oltre 300.000 persone che lasciarono Istria, Quarnero e Dalmazia. Alla foiba di Basovizza la cerimonia è cominciata alle 10.45 all'arrivo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Con lei anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sul posto erano già i Ministri della Cultura San Giuliano e dei Rapporti col Parlamento Ciriani. Una santa messa ha reso omaggio al sacrificio di migliaia di uomini e donne. Da Trieste al sud dell'Italia è il viaggio che compirà il treno del ricordo, quasi sulle orme delle decine di migliaia di esuli che, dopo essere passati per Trieste, raggiunsero tante regioni italiane dove si stabilirono. A bordo del convoglio una mostra sull'esodo. Economia, la carica delle partite IVA, senza albo ordine professionale, aumentano web designer, social media manager, formatori, consulenti finanziari. Cale il numero delle classiche, quelle di artigiani, piccoli commercianti e agricoltori. La frana di Clauzetto risale al 5 novembre, ma ad oggi la strada principale di accesso alla località è ancora chiusa. L'intervento di ripristino richiede tempo, ma pesa su abitanti e realtà commerciali e produttive. Nello sport, per il calcio di Serie C, la cronaca di Mantova Triestina finita con una sconfitta per 2-1 degli alabardati. Per il basket di A2, il resoconto di Cividale Trapani, vinta dai friulani per 73-65. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Alle 10 l'Airbus 319 dell'aeronautica militare atterrato all'aeroporto di Ronchi dei Legionari con a bordo la Premier Giorgia Meloni e diversi ministri, tra i quali il vicepresidente del Consiglio e responsabile degli esteri Antonio Tajani. Alle 10.45, alla presenza dei rappresentanti del governo, è cominciata la cerimonia al Sacrario della Foiba di Basovizza, luogo simbolo e centrale per il giorno del ricordo. Il Sacrario di Basovizza è un luogo del cuore. Ogni volta che sono venuta mi ha lasciato qualcosa. Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto il suo intervento alla cerimonia solenne del giorno del ricordo alla foiba di Basovizza. Sono venuta da ragazza, quando parlare di queste cose significava venire isolati ed emarginati. Ci torno da adulta per fare il mio compito di continuare e trasmettere la memoria, perché non svanisca mai in barba a chi avrebbe voluto nasconderla per sempre, ha detto. Siamo qui per chiedere perdono a nome delle istituzioni, ha ribadito, che hanno passato sotto silenzio quanto avvenuto, e a rendere omaggio a tutti gli italiani che hanno lasciato tutto a causa dei comunisti e sono così diventati italiani due volte, un amore che l'Italia non ha saputo sempre ricambiare. Prima di lei ne ho parlato il presidente del Comitato Martiri delle Foibe, Paolo Sardo Salbertini, che ha ricordato come la legge per ricordare le vittime delle foibe, istituite 20 anni fa, abbia cominciato ad avere i suoi effetti, e ha richiamato il precedente della visita del Presidente della Repubblica Cossiga nel 91, con la necessità di approfondire la memoria di quei fatti. Il sindaco di Trieste Di Piazza ha ricordato le cifre e il dramma degli esuli fiumani, istriani e dalmati, uccisi e cacciati da Tito solo perché, ha detto, avevano la colpa di essere italiani, e ha ribadito per questo la richiesta di togliere l'onorificenza al maresciallo Tito. Per il presidente della regione Fedriga, tutte queste iniziative servono a costruire il futuro anche dell'Europa, che non può esserci senza verità. Chi continua a negare quanto avvenuto nega il futuro di pace all'Europa, oltre che mentire sul passato. Con Giorgia Meloni è la prima volta che un Presidente del Consiglio in carica partecipa alle celebrazioni del giorno del ricordo a Basovizza, un evento la cui importanza è sottolineata anche dalla presenza di 4 ministri, il Ministro della Cultura San Giuliano, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, il Ministro dei Giovani e lo Sport a Bodi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E dunque sentiamo alcune voci appena giunte in redazione, quella del Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. È una presenza doverosa perché noi abbiamo il dovere della memoria dei fatti accaduti tra il 43, 46, 47 sul confine orientale. Abbiamo il dovere della memoria delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Nei giorni scorsi il governo ha approvato un disegno di legge, primo firmatario Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che vuole creare a Roma un grande museo nazionale del ricordo, proprio per creare un luogo di memoria e un percorso museale che racconti alle prossime generazioni quello che è accaduto. A Basovizza anche Renzo Codarin, presidente dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Siamo veramente molto contenti di questa grande attenzione che il governo italiano dà a questa ricorrenza importante proprio qui sul Carso Triestino, sulla foiba di Basovizza. E dimostra che 20 anni di legge del ricordo sono stati fruttuosi. Ormai se ne parla in modo corretto anche dai media, la RAI poi quest'anno è stata incredibile, e quindi sempre più gente è informata, al di là delle divisioni ideologiche, di una verità storica di quello che hanno subito gli italiani e la gente di sentimenti italiani nell'Istria, Fiume e la Dalmazia. In questi minuti alla stazione centrale di Trieste, dove è arrivato un treno storico messo a disposizione dalle ferrovie, si sta inaugurando una mostra sull'esodo allestita all'interno delle carrozze col materiale del magazzino 18. Sul posto abbiamo per aggiornamenti Lorenzo Gerlinzoni. Buongiorno dalla stazione centrale di Trieste, dove, come dicevate, proprio in questi minuti è attesa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo sentito pochi istanti fa le sirene, quindi il carosello delle auto blu presidenziali dovrebbero arrivare qui alla piazzale davanti alla stazione. Noi siamo al binario 2, dove c'è questo treno storico che sarà inaugurato dal capo del governo con i ministri che hanno partecipato, dicevate, poco fa alla cerimonia a Basovizza. Si tratta di un treno storico, un treno a carbone, tale quale a quelli che sono stati utilizzati tra gli anni 40 e gli anni 50 dagli esuli giuliano-dalmati che lasciavano le terre dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, in generale della Venezia Giulia, e passavano per Trieste prima di intraprendere il percorso che li avrebbe portati nei campi profughi in giro per l'Italia. E che cosa si può trovare all'interno di questo treno? Nelle prime due carrozze sono allestiti dei pannelli con informazioni sulla italianità delle terre del confine orientale, della Venezia Giulia, della Dalmazia, dalla età romana alla Seconda Guerra Mondiale, poi un'altra carrozza dedicata al dramma delle foibe e dell'esodo, quindi due carrozze che sono esattamente come erano le carrozze degli anni 40, degli anni 50, quindi con panchi in legno, le cappelliere su cui ci sono ancora dei bagagli come se gli esuli fossero appena scesi proprio dal vagone, quindi un'altra carrozza, una carrozza merci piena di una selezione di masserizie che provengono dal magazzino 18. Si tratta di un treno che sarà visitabile a partire da questo pomeriggio a Trieste fino alla giornata di domani, poi il convoglio partirà domani alla volta di Venezia e toccherà una serie di città italiane: Torino, Milano, Genova, Ancona, Bologna, Parma, La Spezia, Firenze, Roma, Napoli. Il 27 febbraio arriverà a Taranto, quindi porterà in giro per l'Italia la storia dell'esodo e degli esuli giuliano dalmati. Tra poco appunto il convoglio sarà inaugurato, questo treno museo itinerante, dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, attesa a minuti dalla stazione centrale di Trieste. È tutto, a voi linea. Grazie a Lorenzo Gerlinzoni. E dunque, manifestazioni per il giorno del ricordo si sono tenute e si stanno svolgendo in tutta la regione. Sentiamo la cronaca su quelle programmate a Udine e a Pordenone. Si è appena conclusa sotto la pioggia a Udine con la deposizione di una corona d'alloro commemorativa e la benedizione del cippo nel parco cittadino Martiri delle Foibe, la cerimonia ufficiale alla presenza di tutte le autorità civili e di numerosi profughi. Evento clou di un fitto calendario che chiuderà sabato 2 marzo al Teatro San Giorgio con Tanta Lontana Terra, concerto drammatico in ricordo delle vittime delle Foibe, per rinnovare la memoria della persecuzione dei massacri delle Foibe perpetrati ai danni dei cittadini italiani della Venezia Giulia e dell'Istria della Dalmazia sotto l'occupazione jugoslava. Obiettivo è conoscere e approfondire i fatti tragici che attraversarono anche il territorio friulano. Secondo alcune stime, infatti, solo dalla città di Udine transitarono quasi 100.000 esuli. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine. È stata una storia di grande dolore, di grande sofferenza, aumentata dal fatto che per anni è rimasta nascosta. e quindi benvenga questa giornata. Oggi abbiamo il capo della strada Trieste, noi siamo qua in questa regione che è stata sicuramente la più colpita da un esodo di massa che ha rappresentato purtroppo una delle prime pulizie etniche in Europa. Tante le manifestazioni, anche a Pordenone, alle 9, al Parco San Valentino, la cerimonia di commemorazione dell'ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, deceduto il 10 febbraio del 45 nel campo di concentramento nazista di Dachau, medaglia d'oro al merito civile, è riconosciuto giusto tra le nazioni. E nel cortile dell'ex provincia è stata deposta una corona alla lapide che commemora i martiri delle foibe. Oltre al sindaco Ciriani, il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Renzo Codarin e altre autorità. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, saliamo a Clauzetto, dove dopo la frana dei primi di novembre la strada principale di accesso alla località resta ancora chiusa. La grande frana risale al 5 novembre scorso e ad oggi la strada principale di accesso a Clauzetto è ancora chiusa. L'intervento per la messa in sicurezza è certamente impegnativo e richiede tempo. Tempo che pesa però su abitanti e realtà commerciali e produttive della località montana. Clauzetto è comunque raggiungibile, ma richiede una deviazione di alcuni chilometri e disagi per chi deve raggiungerla. L'assessora regionale alle infrastrutture Mirante la scorsa settimana è intervenuta con una nota spiegando che i prossimi lavori potranno partire solo dopo la perturbazione del fine settimana. Auspichiamo che la viabilità venga effettivamente aperta entro la fine del mese, come assicurato dalla regione, commenta il sindaco Giuliano Cescutti. Pasqua è alle porte, per la località è vitale farsi trovare pronta ad accogliere i turisti con la strada aperta. L'auspicio in questo momento è quello per un rispetto dei tempi annunciati, perché se così non fosse noi ci approssimassimo al primo di aprile, che sarà l'effettiva apertura della stagione turistica con l'apertura delle grotte di Pradis, la situazione sarebbe molto più grave dell'attuale. Clauzetto, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti nella notte alle 2.30 allo stadio Rocco per un principio di incendio che si era sviluppato nella sala server. L'allarme era stato lanciato dal personale di guardia che aveva notato le segnalazioni dell'impianto di sicurezza. Ancora non sono note le cause dell'accaduto, notevole la quantità di fumo che aveva invaso il locale senza però che si registrassero danni alle persone. L'operazione dei pompieri, che sono riusciti con rapidità a sventare un rogo e a mettere l'aria in sicurezza, si è conclusa attorno alle 5 di stamattina. I temi dell'economia: aumentano le partite IVA, ma non quelle classiche. Cala infatti il numero delle aziende nell'artigianato, nel commercio e nell'agricoltura, aumentano quelle delle professioni senza albo o ordine professionale. Web designer, social media manager, formatori, consulenti, pubblicitari, sociologi, amministratori di condominio sono le partite IVA senza albo, professioni non regolamentate, oggi in forte aumento. In Friuli Venezia Giulia hanno già superato quota 100.300 rispetto al pre-Covid, se ne contano 1.700 in più, quasi 2 punti percentuali, a segnalarlo l'ultima indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui la crescita è dovuta alla ripresa economica post-pandemia, col balzo record del PIL nel biennio 21-22 è aumentata l'occupazione, compreso il lavoro indipendente, ma ad allargare la platea degli autonomi, secondo gli analisti degli artigiani veneti, ha concorso anche il fisco. L'introduzione del regime forfettario per le attività autonome ha reso meno gravoso gestire fiscalmente un'attività in proprio e non si esclude che la crescita numerica in questo settore sia dovuta anche a un aumento delle false partite IVA favorito dal boom dello smart working. L'indagine rileva di contro il calo progressivo e costante degli autonomi classici, artigiani, piccoli commercianti, agricoltori, stando ai dati INPS tra il 2014 e il 2022 crollati di oltre il 13% per un totale di più di 11.000 unità perse. Gorizia sconta la contrazione più pesante, meno 16%, seguono Udine, Pordenone e Trieste tra il 13 e il 10% in meno, scomponendo le categorie in testa i commercianti, calati in regione del 15%, con picchi superiori a Gorizia e Trieste. Meno peggio gli agricoltori, in regione scesi del 7%, col record negativo sempre a Gorizia e a poca distanza Udine. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Dove va la sanità pubblica è il titolo di un incontro pubblico organizzato dal Comitato per la Salute della Montagna con SPIC GL, FNP CISL di Udine e UIL Pensionati, in cui si parlerà delle carenze di risorse di personale nelle strutture pubbliche a cui interverranno esperti del settore. A Paluzza, nella sala del Centro Servizi Forestali e della Montagna, alle 17.30. Il questore di Udine ha disposto la chiusura di un locale pubblico per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 4 giorni in seguito a una rissa tra giovani avvenuta la sera di giovedì. Il locale, un bar, si trova in Viale Vat. Le forze dell'ordine in diverse occasioni erano già intervenute per liti e criticità sorte nel pubblico esercizio e nelle sue vicinanze, dovute spesso al comportamento di avventori alterati e aggressivi a causa del consumo eccessivo di alcol. La situazione meteorologica, il cielo è coperto e queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 14,5 gradi, a Pordenone 12, a Udine a Gorizia 11,5, a Tolmezzo 7, a Tarvisio 6, Piancavallo e Forni di Sopra 4, Sappada 2,5, sul Monte Zoncolan e sul Lussari 0 gradi, a Grado 14, a Lignano 13. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo coperto con precipitazioni sparse, intermittenti su costa e bassa pianura, più continue e abbondanti, soprattutto in serata, su alta pianura e zona montana, in particolare sulle prealpi. La quota neve sarà circa 1500-1800 metri. A tratti potrà soffiare scirocco moderato sulla costa. Per domani cielo coperto con precipitazioni da abbondanti a intense su tutta la regione, con possibili pause ma anche qualche locale rovescio più intenso e localizzato nelle ore centrali. La quota neve sarà in lieve calo, portandosi a circa 1200-1400 metri sulle Alpi e 1300-1600 metri sulle Prealpi. Proseguiamo con i servizi dal Festival di Sanremo, che ogni giorno dall'inizio della manifestazione ci propongono quanto c'è di Friuli Venezia Giulia nella massima manifestazione canora italiana. Ieri sera il coro Artemia di Tor Viscosa si è esibito al Teatro Ariston con la cantante Annalisa. Al direttore del coro, Dennis Monte, abbiamo chiesto qual è l'emozione nel trovarsi sul palco che in questi giorni è al centro dell'attenzione mediatica. Beh, un'emozione fortissima la prima volta che saliamo sull'Ariston. È stato fantastico vederlo dalla TV per tanti anni e finalmente essere qua è una grande emozione. Voi come avete creato questa connessione con Annalisa? Come è nato il contatto? Il contatto penso sia nato tramite Elisa, che appunto arriva dal Friuli. Probabilmente Annalisa ci ha visto ai concerti di Natale, gli è piaciuta l'idea di avere un coro nella serata delle cover ed eccoci qua. Ecco, come vi siete preparati? Abbiamo ascoltato a lungo i demo che ci ha mandato il direttore d'orchestra Daniel Bestonzo e poi insomma abbiamo lavorato sul brano a casa e l'abbiamo preparato in modo che qua fosse davvero pronto. Annalisa, la rappresentante di Lisa, che cosa vi ha detto? Ma è stata felicissima della partecipazione dei ragazzi, è stata felicissima di come si sono presentati sul palco, per cui davvero un'ottima figura sicuramente per noi. Oscar Puntel, TGR Friuli Venezia Giulia. Sotto i riflettori anche le componenti del coro Artemia, costituito da 28 ragazze di età tra i 14 e i 29 anni. Abbiamo intervistato due di loro, Anna e Carlotta, dopo la loro esibizione, per chiedere le loro impressioni. Bellissimo, davvero emozionante. Io sono contenta, ma penso tutte quante siamo molto contente perché ce lo siamo proprio goduto questo palco. Quindi anche a te chiedo l'impressione di... Bellissimo, tutto tanto, troppo surreale. Fino all'attimo prima non ce ne rendevamo conto. Poi ci hanno chiamato e lì le emozioni, i pianti, però bellissimo. Una curiosità, l'Ariston così piccolo, anche se in TV sembra grande. È vero. No? Sì, è vero, la prima impressione infatti quando siamo venute per le prove è stata proprio questa, cioè ci siamo rese conto che lo spazio era molto più piccolo rispetto a quello che ci eravamo immaginate, perché vedendo dalla TV sembrava molto molto più grande, invece è piccolino, quindi è anche caloroso. Oggi abbiamo sentito molto il calore del pubblico che era ben partecipe nella serata. Ok, adesso voi tornate dal Benga dove alloggiate, poi quando tornate in Friuli? Domani mattina ripartiamo subito. La prima cosa che direte a casa? Ma wow. Penso che chiederanno da casa le impressioni appunto e quindi ci tartasseranno di domande, perciò probabilmente sarà così. Insieme salutate con un bel Mandi, no? Mandi! Oscar Puntel, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed eccoci allo sport, il calcio. L'Udinese scenderà in campo lunedì a Torino contro la Juventus alle 20:45. Ieri in Serie C la partita della Triestina, che a Mantova ha perso per 2-1 la sua prima gara con la panchina diretta da Roberto Bordin. Niente da fare per la Triestina sul campo di un Mantova sempre più lanciato verso la promozione diretta in Serie B. I virgiliani si impongono per 2-1 in una sfida sostanzialmente risolta già nel primo quarto d'ora. Padroni di casa in vantaggio dopo 9 minuti con il classico gol dell'ex. Mensah si libera in area e sfrutta nei migliori dei modi da sottomisure con un colpo di testa a mezza altezza un cross dalla sinistra di Ceresia. 4 minuti dopo il portiere Matosevic è poi bravo a salvarsi su una conclusione dal limite dell'area di Galuppini, deviando in corner, ma dal calcio d'angolo nasce il secondo gol del Mantova. Battuta dalla destra, e il tempo giusto su una traiettoria non irresistibile lo trova il difensore Brignani, che ancora di testa sigla il 2-0, che indirizza la partita in modo definitivo. I padroni di casa non mollano e ci provano ancora alla mezz'ora, chiamando Matosevic ad un altro difficile intervento, mentre l'occasione più nitida per la Triestina arriva in apertura di ripresa, con Moretti che non riesce a finalizzare un cross di Vallocchia da calcio di punizione. Alla Bardati costretti a scoprirsi per cercare di accorciare le distanze che ripetutamente rischiano il colpo del KO definitivo in contropiede. Il gol del 2-1 arriva solo nei minuti finali. Brignani contrasta Vertainen in area al di là di quel che consente il regolamento e l'arbitro fischia rigore. Sul dischetto va Minesso che si fa parare il tiro da festa e non riesce a ribadire in rete la respinta del portiere. Sul pallone però arriva Celeghin che sigla il definitivo 2-1. La Triestina incassa la terza sconfitta in 5 partite e scivola a meno 14 dal Mantova, alla Bardati al terzo posto con 8 lunghezze di vantaggio sull'Atalanta Under 23, che però ha 2 partite in meno. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket di A2, ieri sera ha giocato anche Gesteco Cividale, in casa ha ricevuto Trapani, prima in classifica, i Ducali hanno vinto col punteggio di 73-65. A Cividale Davide batte Golia con merito. Davanti alle telecamere di Rai Sport, la Gesteco supera la corazzata Trapani, dominatrice della A2 e non solo del proprio girone, sconfitta una sola volta in 22 turni. Il primo quarto viene giocato a ritmi alti, con buona precisione al tiro, eccellente l'inizio di Lamb. La squadra di Pilastrini non riesce a contenere i siciliani che, sebbene privi di Imbrò e con Rodriguez a mezzo servizio, vanificano gli sforzi difensivi dei Ducali con una circolazione di palla al limite della perfezione. Ma il match rimane in equilibrio e per i gialloblu è un bel segnale. Nel secondo quarto l'attacco di Cividale si inceppa e Trapani passa avanti ma senza andare in fuga. Il merito della squadra friulana è di non farsi distanziare nonostante le difficoltà in attacco dimostrate fra il secondo e il terzo quarto. Il massimo vantaggio dei siciliani è un più 9 a metà del terzo parziale. È redivo a guidare i suoi nel momento più difficile. All'ultimo intervallo la squadra di Parente è avanti di 6. Nell'ultimo parziale avviene l'impensabile. Trapani cede nonostante la panchina lunga e la Gesteco si esalta in difesa. Il sorpasso si concretizza in pochi minuti con Lab che torna a colpire in attacco. Gli ospiti sbagliano conclusioni da sotto e soprattutto tanti liberi, al contrario di Cividale. Il vantaggio massimo dei padroni di casa è di 9 punti. Il tentativo di rimonta degli squali siciliani, propiziato da un fallo antisportivo generoso fischiato a Marangon, è vanificato dagli errori offensivi. Finisce 73-68 per l'apoteosi al Palagesteco. Buonissima la prova di tutta la formazione gialloblu, con Redivo che rimane il riferimento in attacco, ma è stata la prova di squadra a fare la differenza. Partita casalinga questa sera per la Pallacanestro Trieste, che oggi inizia la fase a orologio partendo quinta e affrontando alle 20 la Luis Roma. È in programma domani il match fra APU Udine e Urania Milano con inizio alle 18 al Pallacarnera. Basket in carrozzina in Serie B, la Castelvecchio reduce da 3 vittorie consecutive contro Verona, Montecchio, Maggiore e Rimini, giocherà per il secondo posto in classifica contro Vicenza, altra pretendente ai vertici della classifica. Appuntamento al Palazzetto dello Sport di Gradisca di Sonzo alle 16:30. Domani su Rai 3 andrà in onda Est Ovest, la trasmissione della TGR dedicata all'Europa centro-orientale. Sentiamo cosa conterrà la puntata. 20 anni fa il Parlamento approvò la legge per ricordare le stragi delle foibe e l'esodo degli istriani e dalmati, il ruolo della ricerca storica e della scuola. A 2 anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le speranze di pace stanno sprofondando nel fango delle trincee. L'autoritarismo di Putin e la censura di ogni forma di giornalismo indipendente, il caso della carcerazione di Alsu Kurmasheva. La regina Elena di Montenegro, una sovrana scelta per dare nuova linfa, salute e altezza alla casata dei Savoia. Il recupero dei film albanesi dell'epoca di Enver Hoxha, documenti visivi di un'epoca salvati anche grazie all'intervento di ricercatori pugliesi. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E ancora domani, ma alla radio, dopo il GR del mattino, andrà in onda la rubrica sul mondo dell'agricoltura, Vita nei campi. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura lo stato di salute e le novità della pesca a Marano Lagunare. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato I bucaneve di San Valentino. Per i legumi da granella, la soia tra alimentazione umana e zootecnica con la variante edamame. E ancora i contenitori per la fermentazione del pigiato, carrellata sui vari materiali, dal cemento all'acciaio, dal legno alla ceramica. Nella rubrica dei grandi alberi, la secolare roverella diplessiva di Medana, e per lo spazio della gastronomia, dall'universo delle frittelle, quelle a base di patate. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:56:40. L'assistenza tecnica è stata garantita da Roberto Cavallari e da Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.